prima vi rubiamo mezz'ora, 40 minuti per un argomento altrettanto importante, direi, ed è la presentazione di un romanzo. Mi presento, sono Daniel Bidussa, cosa ben più importante, lui è Federico Fagotto, autore di Flash, scritto Flash, questo libro qua, molto bello, l'ho letto. Allora, vi dicevo, siccome la serata è per la cena poetica, cercheremo di rubarvi per questo libro di 500 pagine solo mezz'ora, 40 minuti al massimo, in cui cercheremo per l'appunto di farcelo raccontare dal suo autore, dalla persona che l'ha scritta. E giusto due minuti di introduzione che faccio io, poi se Fede vuole aggiungere qualcosa, ben venga. Per descriverlo, vi direi subito che è fondamentalmente un pulp fiction. Sono tre storie diverse, tre storie tutto sommato autonome fra loro, abbastanza brevi, con qualche personaggio in comune, e nel complesso rappresentano in realtà un'unica grande trama. È una citazione che Federico non sa che sto per fare, non dal libro, da Tutsi, il film con Dustin Hoffman, che credo rappresenti lo spirito del libro, su questo magari mi correggerà. Bill Murray diceva, in qualità di attore, che non voleva uno spettatore che venisse da lui a fine spettacolo dicendo «ho capito perfettamente tutto e ho pianto». Preferiva uno che veniva il giorno dopo dicendogli «ho visto il tuo spettacolo, che cazzo volevi dire?». Ecco, per me Flash è stato più o meno questo. Dopo averlo letto ho impiegato due giorni a rileggerlo e a cercare di capire tutto. Mi sento di dire che ho capito l'80%, che non è male. Questo perché... Visto che è un romanzo breve, lo si può anche leggere due volte per capirlo meglio, forse. Assolutamente. Ma questo perché è un pulp fiction, sono tre storie che si intrecciano, c'è molta trama, è sicuramente molto avvincente, ci sono misteri, sentimenti, emozioni, come nella migliore tradizione, e il tutto è macchiato dall'esperienza, direi, di studio e filosofica di Federico, in cui pian piano nel libro ci si mettono anche riflessioni, riferimenti, pensieri che vanno a integrarsi nella trama. E questo secondo me è un po' l'essenza di quello che è il romanzo. Solo per oggi, fra l'altro, il romanzo, che a copertina verrebbe 22 euro, per la presentazione di oggi invece verrebbe 15 euro. Federico ha accordato questa cosa. Anche per superare altri scogli che riguardano il fatto che c'è anche la cena poetica dopo, ingressi vari, quindi andiamo calmi. Quindi grazie Fede. E ti dico, prima di cominciare con la presentazione, ti chiedo se hai anche tu due parole da dire, e poi magari spiego un istante come funziona la presentazione. Bah, allora, sul libro non inizio a stappare le mie bottiglie mentali, perché visto che non vogliamo sbrodolare, abbiamo inventato un giochino che coinvolge anche quella lavagna e che farà scegliere a voi cosa volete sentire. Potete anche dire non vogliamo sentire niente, noi prendiamoci e andiamo, quindi non rubiamo tempo a nessuno. Io vorrei forse solo scaldare un po' l'atmosfera e chiedere chi qui dentro legge o scrive qualcosa, soprattutto scrive a qualcosa che ha per le mani, si scrive per conto proprio, da quella parte, in fondo lì. Poi immagino che la maggior parte di voi resterà la cena poetica, quindi qualcuno leggerà anche. Fine? Nessuno qui dentro scrive qualcos'altro? Anche per i cazzi propri. Lì abbiamo un ospite, ovviamente, scrittore. Anche la lista della spesa, insomma, qualcosa. D'accordo. Allora, spero che voi vogliate importunarmi per portarmi anche quello che vi anima nella scrittura e non solo nella lettura, rubando alcuni di questi argomenti che abbiamo trascelto e chiamandoli in causa. Grazie Fede. Allora, Fede mi ha un pochino anticipato, adesso lo spiego istante anch'io. Sì, il libro sono 500 pagine con vari argomenti che vengono fuori, storie interessanti, originali. Quindi io personalmente, con l'aiuto di Fede, abbiamo trovato questi 10 argomenti che si possono in qualche modo ritrovare nel libro. Siccome dura soltanto mezz'ora, la presentazione è una sfida un po' anche per lui, per riuscire a rispondere in modo sintetico, stando al massimo in 4 minuti per ogni domanda. Sono 10 argomenti, sono tanti, l'obiettivo nostro è coprirne 3 o 4, quindi se qualcuno ha un particolare interesse può trovarlo da qua. L'unica indicazione che vi do, che magari può essere d'aiuto anche per sceglierlo, è il titolo proprio, Flash, scritto Flash, proprio perché vuole essere una crasi fra Flash con la E, cioè lo scatto della macchina fotografica. Sì. Dicevo Flash con la E, che vuole essere la carne. Grazie. E Flash con la A, che vuole essere lo scatto della macchina fotografica, lo sapevo. e in qualche modo è una crasi che ha un suo valore proprio fisico nel romanzo, è un progetto fotografico che porta avanti uno, in realtà più di uno dei personaggi, e in qualche modo si ritrova anche nel romanzo nel suo complesso. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e adesso passo la parola a voi se qualcuno ha un particolare interesse fra Pulp, autocritica o coscienza di sé, per intero non ci stava sulla lavagna, fotografia, moda o arte del corpo, come sopra, sesso occasionale in età adulta, lo spirito del tempo, il lettore ideale, paratesto, la fortuna del romanzo o i personaggi. Premesso che questi sono 10 punti che ha trovato lui, ha estrapolato, rubato dal libro, per ognuno di questi lui ha anche formulato delle domande, quindi se è come se fosse un lotto, come se fosse una battitura d'asta, voi volete comprare uno degli argomenti e rifarvi alle sue domande, che secondo me sono bellissime. Io ho fatto un po' di presentazioni di libri di questo libro finora, ma le domande come le ha puntualizzate lui finora nessuno, potete sentire dalla sua voce e prendere in prestito la domanda come l'ha immaginata. Prego, come ti chiami? Luca, lo spirito del tempo. Ok. Va bene. Ok, spirito del tempo. Allora, hai una domanda tu da fare o peschiamo da quelle già precompilate? Io ti ho stampato le domande che hai scritto, se vuoi, se ti interessa. Se mi ci dici prima, ti devo riscrivermi la mano. Ma ti avevo visto di buona lena. Allora, ok, allora, lo spirito del tempo, prima di fare la domanda forse è importante chiarire, lo spirito del tempo è quasi un personaggio del libro, è una costante che si sviluppa particolarmente nella terza parte, e quindi anche per chiarirlo meglio, forse effettivamente la domanda che secondo me può meglio aiutare a comprendere il tipo di romanzo è proprio questa: lo spirito del tempo è qualcosa che si reincarna nella storia dell'umanità a partire dalle origini fino ai tempi in cui si svolge il libro, che sono i tempi nostri. E sembra un personaggio unico, quindi com'è che questo personaggio unico che vive più secoli, più epoche, più linee di pensiero che passano le mode, riesce a avere una sua coerenza all'interno dei vari tempi? Questo romanzo viaggia nello spazio e nel tempo, avanti e indietro, senza tirare sempre dritto. Il tempo anzi fa questo gioco di rimbalzi, quindi abbiamo una prima parte, come detto, che è ambientata in un immediato futuro rispetto ai giorni nostri ed equivale alla nostra epoca e tutto quello che la riguarda. La seconda parte fa un breve balzo in avanti, la terza parte invece torna molto indietro, ripercorre una serie di vite concatenate dall'inizio del 1500. E tra la seconda e la terza parte vorrebbe esserci una sorta di shock per chi arriva tenace fin lì a leggere, nel senso che si viene catapultati in un tempo e in un luogo che non ha nulla a che fare con quello che c'era prima, e a quel punto bisogna avere forse la fiducia, per non dire la pazienza, di rivedere dove si sta andando a parare. Quindi si ripercorrono i secoli dal 500 fino ai giorni nostri, e lo si fa osservando delle vite che si susseguono senza soluzioni di continuità, nel senso che il filo rosso di questo libro è il tema della reincarnazione, il tema della metempsicosi. Quindi un'anima precipita in questo mondo in un modo che ho un po' voluto congegnare, l'idea che siano i fulmini durante le tempeste a recapitare le anime novelle nel nostro mondo. Come mai la popolazione, la demografia aumenta? Questo significa che anche le anime si moltiplicano. Allora, quando è che inizia una nuova anima? Quale fenomeno innesca il ciclo karmico? E l'idea è che i lampi, i fulmini, scaricando a terra, scindendo gli atomi di azoto, facciano comparire un'anima. E quest'anima è immediatamente affamata. Io voglio usare continuamente la parola fame, visto che siamo durante una cena poetica. E la fame in questo caso è di carne. Purtroppo io sono vegetariano, ma me la ricordo la fame di carne, quando me la mangiavo la carnazza. E la carne quindi è la fame di un contenitore, il primo disponibile. Ando coglio coglio viene rubato, e questa è la cosa bella, perché questa fame indistinta, onnivora, che è anche avida, ambiziosa, con tutte le negatività che porta, ma è anche completamente egualitaria e democratica. Qualunque contenitore della nostra realtà può sfamarci in quanto anime nel nostro bisogno di avere un contenitore corpo. E allora può essere un essere umano, dal più insignificante di popolani e di contadini al più alto dei re, può essere un animale. Il primo contenitore è esattamente un animale, una balena che stava nuotando, uno squalo balena che stava nuotando nell'oceano Atlantico all'inizio del 1500, quando una tempesta marina l'ha folgorata. Oppure possono essere anche degli oggetti che diventano simbolici. Quindi, visto che nella domanda c'era anche, credo, la richiesta come fa quest'anima nel corso del tempo a seguire le epoche nel segno della reincarnazione. Lo fa perché, visto che la terza parte è anche un excursus storico, mostra come se fosse un affresco il fatto che, come molte altre cose riguardano la nostra identità storica, le varie epoche hanno trovato modi diversi di dire questa cosa che io sto dicendo male adesso e che mi sono impegnato più in forma scritta a raccontare. Cioè, l'alchimia, se ci troviamo in una certa epoca tra Rinascimento e fine Medioevo o immediatamente dopo, o lo spiritismo, l'occultismo se andiamo nell'Ottocento, o la New Age se arriviamo nel Novecento, nella sua seconda metà. Quindi ci sono alcuni personaggi, come Mesmer, per chi ha nozione un po' di alcune temi che riguardano la magia, o alcuni riti che sono legati anche ad alcune sostanze allucinogene che vengono sfruttate nella terza parte per aprire queste visioni, che, come dire, rinnovano come se fosse un habitus, come se fosse alle volte anche un colore dell'epoca, questo modo con cui tutte le anime, tutte le persone, tutti gli animali, tutti gli oggetti modificano nella propria forma l'idea che noi abbiamo di che cosa debba essere il cammino di un'anima. Ok, grazie Fede. Quanto sono messo? Devo dire molto bravo, ecco, è una cosa che non vi avevo detto, ma nello spirito della cena poetica, siccome anche durante la cena poetica... È una sorta di quizzettone, io sono in 4 minuti, tu mi devi di tirare una gomitata. Infatti mi stavo chiedendo come farlo. Nel senso che, siccome anche durante la cena poetica, come vi spiegherà meglio poi dopo Pipitone, per ovvi motivi c'è un po' un tempo limite che si dà ad ogni poeta, anche in questo caso, per mettere anche Fede in questo mood... Abbiamo deciso di dargli per ogni risposta un massimo di 4 domande. Bravo, ti avanzavano 11 secondi. Visto che ho scritto 500 pagine, almeno devo fare ammenda certo, ed essere asciutto quando ciarlo. Ok. Ok, grazie mille Fede. Qualcuno ha altri argomenti? Io vorrei sapere del sesso occasionale. Eccala là. Eccala là. Va bene. Allora, sesso occasionale in età adulta. Sì, allora, come... dicevo anche all'inizio, ci sono diverse storie, diversi personaggi, per la maggior parte si ritrovano fra i loro 40 anni più o meno, che hanno vissuti vari naturalmente, e si ritrovano in tanti ad avere situazioni più o meno romantiche, più o meno erotiche, e sono rappresentate anche in modo diverso. In particolare direi il protagonista della prima parte, che è un ragazzo di 40 anni, un ragazzo si fa per dire, e la protagonista della seconda parte, che invece è una ragazza, anche in questo caso si fa per dire, più o meno di 40 anni, hanno due vite particolarmente diverse, nel senso che uno è, in un certo senso, passami il termine, lo stereotipo del playboy, si può dire, mentre la seconda è una madre con quindi delle responsabilità verso sua figlia in particolare, e che ci porta effettivamente alla vera domanda che secondo me può essere importante sul sesso occasionale, soprattutto quando è in età adulta. Forse anche nel mondo della narrazione in generale, ultimamente si vede spesso e si sentono un po' di voci dire che il sesso, quando è rappresentato nei libri, nelle serie TV, al cinema, è più per dare spettacolo che qualcosa di realmente funzionale, di realmente necessario, forse il più delle volte evitabile. In questo caso le scene di sesso sono qualcosa di fondamentale per la trama. Quindi la domanda è: come hai ottenuto questo risultato? Ti sei posto il problema scrivendolo? Quali sono le accortezze mentre si scrive la scena erotica? Si va da due estremi che poi riguardano i due grandi protagonisti. Il primo della prima parte è un protagonista maschile, si chiama Fulvio. Tutta la prima parte è nel segno del mascolino, nel senso anche retrogrado alle volte, molto spesso. La seconda parte è all'insegna del femminino sacro. E la protagonista non ha nome e poi riceverà un soprannome che è Viridis. E loro hanno un approccio nei confronti del sesso agli antipodi, come mille altre cose che li riguardano, e io quasi involontariamente li ho messi come teste di ponte agli estremi di questa fisarmonica, in cui in mezzo ci sono invece, come dicevo prima, tutti i colori delle anime che trovano mille altre forme. Come provare a mettere questo tema senza scadere nel sensazionalismo letterario, no? e poi al giudizio di chi legge invece pensare che ci sono caduto. In questo modo Fulvio è talmente onnivoro nei confronti del sesso che è la sua molla, è ciò che lo porta fuori di casa la mattina e lo fa tenere in vita, appena questa cosa gli manca ritorna in depressione, ma è talmente onnipresente che per la sua piccola vita è come se lui vivesse rinchiuso in un barattolo. Vale quello che diceva Freud del sesso quando era stato accusato di pansessualismo, no? Freud vedeva in ogni comportamento più o meno consapevole una spia di una valenza sessuale. Lui diceva, ma in realtà ogni cosa è simbolo del sesso, perché il sesso è simbolo di ogni cosa. Quindi il sesso in questo caso fa da doppio cono in cui tutto ciò che entra poi in forma metaforica apre a tutto il resto. E tutto il resto in questo caso ha come perno Fulvio, che ha perso i genitori da poco, che sente gravare sopra di sé l'ombra di un padre che era un collezionista ipertrofico di oggetti, che poi gli dà in eredità, gli arriva in eredità. E lui, sentendo il peso quasi barocco di tutta questa eredità paterna, decide di disfarsene, e il modo migliore per disfarsene è venderli, quindi inizia ad aprire un mercatino a Senigallia, e lì cade nella propria autotrappola, è la tela del ragno di se stesso, perché lui dalla postazione del banchetto a Senigallia inizia a vedere le teenager che passano, ok? E loro guardano gli oggetti e non si accorgono che lui guarda rimando, no? Come l'abisso che ti guarda quando tu lo osservi nel profondo. E lui si rende conto che il suo tentativo di disfarsi degli oggetti in realtà ha innescato una coazione a ripetere. Lui, per sostentarsi anche economicamente nella vita, inizia a fare i robi vecchi di mestiere e quindi si dismette gli oggetti in output, ma lui ha bisogno continuamente di fare un'incetta, perché solo così può tirare a campare. E allora questa cosa si combina simmetricamente esattamente col suo rapporto a usa e getta con le donne. Io penso che lui travalichi talmente tanti limiti che qui non si parli proprio neanche più di sesso, si parli di qualcosa che tende all'universale e trova nel sesso solo un'occasione formale. Questo è Fulvio. Viridis invece è il contrario. Viridis è una ragazza madre di 25 anni che ha avuto una figlia da uno stronzo da cui poi ha divorziato, di cui non vuole più neanche sentir parlare, e quindi ha questa forma di repulsione nei confronti del sesso, al punto tale che una volta avuta l'unica esperienza sessuale che è raccontata nella seconda parte e che poi mollerà il colpo perché non ce ne saranno altre, e la terza ne è priva fondamentalmente. Quello che le succede è che quando le ricapita l'occasione di trovare quell'unica persona che l'aveva intrigata dopo il suo ex marito, lei la rifiuta. La rifiuta perché si rende conto che questa è una di quelle cose che lei deve imparare a fare per capire chi è, per ritrovare la propria identità. Il motivo per cui lei non era stata in grado di avvicinare altri uomini era il fatto che la presenza ombelicale di sua figlia la inibiva e la faceva sentire contemporaneamente confortata, perché trovava in sua figlia una protezione, ma anche invecchiata anzitempo, perché aveva soltanto 25 anni e aveva già rinunciato a certe cose in nome di essere già madre. Questo tagliare il legame ombelicale con la figlia alla riaprirsi la curiosità verso gli altri uomini passa attraverso una seconda cesura del nodo ombelicale, cioè verso la dipendenza dagli uomini. Stop. Però sei arrivato bene al punto, peccato, perché avrei voluto collegare e fare un'altra domanda, ma è andata così. Quindi vedevo che c'era invece una domanda. Ovviamente la tecnica per farcela è parlare come Bidu, che parla 2x. Io sono a 1,5, però vi posso allenare. E può non sembrare, mi sto sforzando di parlare lento. Prego. Giusto, cioè è la seconda. Però. Ok, autocritica, ok. Allora, autocritica o coscienza di sé, perché purtroppo per intero non stava sulla lavagna. Qui riguarda strettamente i personaggi e mi viene da dire che riguarda in modo particolare Fulvio e Viridis, di cui parlava adesso, che sono i protagonisti della prima e della seconda parte, nel senso che come in ogni storia, come in ogni romanzo, sono due personaggi che comunque cambiano e hanno un percorso loro che li porta a essere qualcosa di diverso da quello che sono all'inizio, anche attraverso esperienze sessuali, ma non solo. E in realtà hanno... Non vi dico quale dei due, ma hanno due modi diversi di cambiare. Cioè, uno dei due cambia perché si rende conto che c'è qualcosa che non funziona nel proprio modo di condurre la vita, e invece l'altra persona cambia quasi per caso, ed è perché il resto del mondo giudica quello che fa o finora ha fatto o come si esprime, eccetera, eccetera. Indi per cui, credo che questo punto sia abbastanza importante capire, può essere interessante per Fede rispondere. Io direi a entrambe le domande che ho pensato, cioè se il cambiamento è sempre un miglioramento e a chi secondo te il lettore, trovandosi a leggere queste due storie che poi ovviamente si intrecciano in qualche maniera, sarà portato ad avere più empatia? Cioè se con un personaggio come quello che ho appena descritto come Fulvio, che all'inizio ha un comportamento anche abbastanza materialista, o una persona come Viridis, il cui comportamento può essere magari estremo da alcuni punti di vista, ma quantomeno trainato da un sentimento d'amore verso la figlia. A cui stare 4 minuti è difficile, quindi forse rispondo solo alla prima domanda, però vediamo. Posso dire che c'è una frase nel libro che adesso resa male, dice «Sono malinconici solo coloro intorno a cui il mondo cambia senza che loro siano capaci di cambiare». Quindi guardano al presente come se fosse già un passato a loro precluso. È esattamente quello che succede a Fulvio. Fulvio è una persona inamovibile, che ormai è entrato, come dicevo, in una coazione a ripetere, e che è capace di cambiare, quindi di redimersi in qualche modo, e lui avrà effettivamente una redenzione nell'ultima parte, solo lasciandosi andare, lasciandosi scivolare negli eventi che lo travolgono. Questi eventi che lo travolgono, senza eccessivi spoiler, sono un omicidio del quale lui viene imputato, pur essendo innocente, forse, e la seguente condanna pendente. E quando lui inizia a venire trascinato in tutto questo, la sua visione del mondo raccontata in terza persona diventa sempre di più un suo modo di vedere le cose che forse non equivalgono a quello che succede veramente. Cioè il lettore inizia a entrare nella sua schema mentale che lo porta a autonascondersi tutto ciò che effettivamente sta veramente succedendo. Lui si trova veramente in aula di tribunale, costretto a rispondere all'avvocato, al PR, al giudice, e pur facendolo macchinalmente luma un po' con impossibile erotismo la giudice che sotto la toga nasconde le forme femminili, quindi è alla deriva, e lasciandosi trasportare da questa corrente che ormai è esondato lo porta da qualche parte. Viridis è il contrario. Viridis vive in un mondo inamovibile, statico, che è quello di Milano, che è quello che comincia a insegnarle, anche se lei era ignorante in materia, alcuni temi di ambientalismo. C'è una grossa fetta che la riguarda, che ha a che fare con questo argomento. Lei ha bisogno di purificarsi da tutto questo. Le tre parti possono anche essere lette con un'enorme esagerazione come inferno, purgatorio e paradiso. Il suo purgatorio consiste nel uscire da questa bolla intossicata di Milano che non si muove mai ed essere lei a muovere il culo. Lo sprone per farlo è dare un futuro migliore a sua figlia, quindi in nome di una sorta di altruismo che però è sincero, all'inverso dell'egoismo di Fulvio, la porta a respirare aria buona fuori da Milano e arriverà in Sardegna immersa nella natura. Quindi per risponderti io posso dire che nelle singole vite dei personaggi, anche tutti gli altri personaggi minori che vengono presi in prestito nel corso delle tre parti, una redenzione tendenzialmente c'è. Non è obbligatoria, non è pedissequa, ma la speranza è che ci sia. Tutti i personaggi in qualche modo, anche in maniera tragica, trovano la loro redenzione. Ma se si guarda il libro più dall'alto come una parabola che inanella le vite in una ciclicità di reincarnazione, la redenzione non c'è. Ma non in senso pessimistico. L'idea è che ognuna delle vite che si riprotrae, che si protrae rispetto a quella precedente, deve rifare esattamente il cammino. Quindi ci sono alcune vite che magari, come nella terza parte, anche nel corso dei secoli, hanno già affrontato tutta una serie di esperienze e perciò in teoria dovrebbero essere già capaci di trovare immediatamente forme di redenzione, non sono capaci di vederle, devono rifare ogni volta il cammino da capo. Quindi le singole esistenze si redimono, il ciclo delle rinascite invece deve continuamente smacchinare per continuare a ruminare e ricapire le stesse cose. Guarda, grazie, e fra l'altro mi ricollego un istante, dimmi se d'accordo o no, in tutto questo c'è anche quasi un concetto di contrappasso, cioè nel senso Fulvio, come dicevi, ha un processo in cui viene imputato per un omicidio che non ha commesso forse, e viene quasi da dirsi che viene imputato forse per l'unica cosa per cui forse è innocente, non viene mai attaccato per un sacco di cose che anche se non sono illegali sono quantomeno non etiche. Tra i vari vizi Fulvio ha assunto su di sé quella falsa sensazione di essersi meritato un castigo, di essersi autoconsiderato una persona cattiva, che è la cosa peggiore che possiamo fare, e dunque quando gli arriva una punizione immeritata lui se la accolla perché pensa che solo così potrà sdebitarsi di qualcosa fatto a terzi. Ok, siamo giunti così alla fine anche di questi 4 minuti. C'è qualcun altro che ha un argomento cui è interessato? Vai! Paratesto, ok. Allora, il paratesto in per paratesto in generale si intende tutto ciò che in un libro non è il testo, quindi la copertina, la quarta, la grafia del titolo, tutto ciò che dovrebbe invogliare qualcuno a comprare, poi eventualmente leggere il libro, ovviamente senza averlo ancora letto. Cioè, quando sei in libreria, se compri un libro, non è per il libro non lo conosci. È perché la copertina ha dei bei colori, è perché il titolo ti ispira, è perché la quarta è stata scritta bene, il libro è un'incognita. Ed è il motivo per cui spesso non compriamo libri che ci potrebbero piacere e ne compriamo altri che invece poi non ci piaceranno, o come in questo caso ne compriamo uno che poi ci piacerà. Quindi per cui sul paratesto eccolo qua. Ok, sul paratesto avevo una sola domanda preparata ed è in effetti questo, e magari su questo leggo un istante io la quarta, così ci rientriamo un istante. Quarta di copertina che dice: c'è un comune denominatore fra un tombeau ossessionato dalle donne accusato di omicidio, una ragazza madre che trascina la figlia nella sua lotta per l'ambientalismo e un giornalista che sperimenta riti sciamanici e sostanze allucinogene per scoprire una strana verità? Sì, è la metempsicosi. Flash è la fotografia, Flash con la A, che immortala la carne, Flash con la E, di innumerevoli persone, ma anche animali, piante e oggetti, che nel corso dei secoli ospitano un'anima vagabonda e irrequieta fino al suo epilogo, nel presente e nell'immediato futuro, cioè nel 2027, sulle tracce di morti violente, riconducibili a un solo grande destino. Quindi, leggendo questa quarta di copertina, vedendo la foto in copertina, cosa credi che si possa aspettare un possibile lettore e in cosa al libro finito resterà stupito? Allora, il biglietto da visita fronte e retro di questo libro, che serve per esorcizzare la mole che invece si vede se lo si guarda di sbieco e che può scoraggiare dalla lettura, ovviamente come ogni libro serve invece per convincervi a farlo. Per la copertina mi sono affidato all'emerito grafico Andrea Giussani, che tutto ciò che mette in forma estetica secondo me è avvincente. In questo caso abbiamo usato una lastra che ritrae una colonna vertebrale, ma che allo stesso tempo vorrebbe sembrare un fulmine che, come dicevo prima, rovina terra e dà corpo a un'anima. Per quanto riguarda invece la quarta copertina che ho appena letto, mi fa ridere il fatto che quando l'abbiamo letta con un amico, dopo che gli ho spiegato, quando lui mi ha chiesto come avevo scritto questo libro, il fatto che non fosse nato l'idea già ambiziosa di scrivere un romanzo così complesso in 3 blocchi, ma all'inizio il primo blocco voleva essere un romanzo a sé stante, che avevo scritto e messo da parte perché gli mancava qualcosa, mi ero dedicato a tutt'altro senza rendermi conto di andare veramente nella direzione opposta, solo dopo l'ho notato e ne ho scritto un secondo, anche quello aveva qualcosa che ancora non funzionava, l'ho messo anche quello in un cantuccio, e poi dopo averci meditato ho trovato una terza parte per legarli. E il mio amico ha sbottato: ah, ma allora è una cozzaglia di roba. Se uno legge la quarta copertina magari spero venga intrigato, ma allo stesso tempo pensa: bella, che bel quacervo, che bel mischione, minestrone di cose. Ecco, io forse quello che potrei credere il lettore della quarta copertina non vedere in questo libro prima invece di affrontarlo è il fatto che questo libro invece è un'architettura, è il tentativo veramente di costruire un'architettura confidando nel fatto che poi tutte le coincidenze che io a posteriori ho rinvenuto in quello che avevo già come materiale a disposizione cominciavano a mettere insieme i blocchi, a costruire la piccola cattedrale al di sopra della trama, cioè proprio nel senso dell'ordito. Ci sono tutta una serie di personaggi su cui poi io ho lavorato, che sono le comparse, i deuteragonisti di questa storia, che sono snocciolati tra le pagine e chi li legge può anche trovarli come indizi per vedere: ah, io quel personaggio me lo ricordo, l'ho già trovato lì e adesso sta qua. Ci sono delle parentele, sono consanguinei molto spesso questi personaggi, ma la cosa non viene detta esplicitamente, in maniera tale che appunto l'intreccio, come fosse una cesta di vimini, inizia a stringersi sempre di più. E poiché a me, nonostante le peregrinazioni, piacciono molto i romanzi di trama, tant'è vero che secondo me tutti i veri romanzi in qualche modo sono dei romanzi gialli, anche se non c'è l'assassino e il maggiordomo, il tentativo è quello di tenere in piedi l'arco di volta, perché sennò quando arriva in cima casca, e poi arrivare da qualche parte. Quindi c'è a tutti gli effetti un plot, c'è a tutti gli effetti qualcosa da scoprire e c'è a tutti gli effetti un mosaico di indizi che chi avesse poi pazienza di guardare più l'ordito della trama potrebbe ridisegnare e spero trovarci una figura come io ce l'ho vista. Oppure è un mio baglio, non lo so. Ok, grazie e ti dico. Cazzo, 3 minuti. Grandissimo. Guarda, mi prendo io l'ultimo minuto per dire su quello che hai appena detto, che sì, quando io all'inizio dicevo, poi ho dovuto rileggerlo, non l'ho riletto tutto, però ho passato il giorno dopo a piluccare, cercare pezzi che mi dessero risposte e in un paio d'ore li ho trovati. E una mia versione della storia ce l'ho. Non so se sia quella che hai in testa tu, ma c'è una mia versione della trama che esiste, che regge e che effettivamente una volta capita ti dà un respiro di sollievo. Una telefonata fra te e Pipitone di cui mi hai riferito è il motivo per cui avevo piacere fossi tu a presentarmi. Mi è piaciuto molto come ti ho sentito vicino come lettore. Grazie. Allora a questo punto il tempo stringe, siamo riusciti io credo a tirare fuori un bel po' di cose di quelle che io speravo venissero elaborate dall'autore. Mi prendo io l'ultima domanda, che forse è quella fra le quali ho più pensato, che più mi intriga, e poi lascio la parola a Francesco per presentare la cena poetica in cui spero di vedere molte poesie e molti lettori presenti adesso fra il pubblico. E la domanda è forse quella che meno riguarda il libro, strettamente libro, ma è se un giorno dovesse uscire una serie TV, un film, quale sarebbe il cast ideale, ma soprattutto chi sarebbe il regista? Ah, questa me l'ero preparata perché sennò sei rimasto mezz'ora a fare... Regista, quello hipster per fare quello che ne sa di cinema è Josef Losey, ve lo consiglio, regista di Il Servo o Mr. Klein, perché è capace appunto di fare queste trame estremamente ordite, ma poi soffuse da un senso di onirismo che sembra che in realtà non abbiano questa logica ferrea, ma ce l'hanno. Se invece vogliamo tirare fuori un regista molto più noto che fa in qualche modo questa cosa, Coppola. Per Fulvio, a me dispiace, sono tutti... Padre o figlia? Eh? Padre o figlia? No, Fulvio. No. Coppola? Ah, no, Coppola. No. Francisco Forde. Per Fulvio, vabbè, Fassbender. Chi altro avevo pensato? Beh, ad Alain Delon. E poi avevo pensato a Michael Pitt. Per Viridis avevo pensato a Susan Sarandon o alla protagonista di cui non mi ricordo il nome, di Senza tetto né legge, della Vardà. E poi per il giornalista di cui adesso abbiamo parlato, che è il protagonista invisibile della terza parte, cioè colui che vede a occhi chiusi tutta la susseguirsi delle reincarnazioni attraverso delle esperienze allucinatorie, prima col temascal, poi col peyote, poi col candomblé, poi con l'ayahuasca e fricchettonate varie, questo protagonista quasi nominato per me potrebbe essere o Peter Lorre, che è il protagonista di Il mostro di Düsseldorf, oppure avevo pensato a Klaus Kinski. E... se dovessi dire un italiano? Lo so, non ci sono italiani purtroppo. No, qui sto 3 ore a pensare, non ho già detto abbastanza. Ma più che altro volevo, ultimissima cosa, visto che qui si parla di concatenazione di richiami, per non stare solo e soltanto sul libro e portarsi a casa qualcosa di più che sia un libro, sia che lo vorrete prendere fisicamente, sia che non, io vi posso consigliare altri libri che per il mio libro sono stati importanti, più o meno consapevolmente. Vi posso consigliare I 6 problemi per Don Isidro Parodi, scritto a 4 mani da Borges e da Casares. Vi posso consigliare La promessa di Dürrenmatt, che anche lì gioca molto sul giallo e sulla psicologia. Vi posso consigliare Il segno dei 4 di Arthur Conan Doyle, perché mi ricordo quando avevo letto da piccolo, non so chi l'abbia mai letto, ma ero rimasto sconvolto dal fatto che è un libro molto piccolo, ma a un certo punto la trama in cui c'è Sherlock Holmes, Watson, devo risolvere il caso, si interrompe bruscamente. E nella seconda parte si va da tutt'altra parte, si va nel Far West, storie di pionieri, e io che ero giovane ancora più cretino di adesso ero convinto che l'editore avesse sbagliato a pubblicarlo e avesse piazzato 2 libri in mezzo che non c'entravano una fava, e quando mi sono lasciato trasportare da questa robina e Conan Doyle mi ha invece fatto capire che tutto aveva un cazzo di senso, io sono rimasto gratificato e un po' ho voluto rifarlo qua, non so se ci avevo proprio in mente mentre lo scrivevo, ma evidentemente mi era rimasta qua. E invece il grande capolavoro che anche come impianto io ho cercato di scimmiottare un po' apposta, un po' no, è 2666 di di Roberto Bolaño, dove anche lì, dopo delle trame ambientate in Messico, che per me è un po' un posto del cuore, invece si viene fiondati nella Germania della guerra e non c'entra un tubo, e anche in quel caso invece poi nella visione più d'insieme, cazzo, è un banchetto letterario in cui ci si può veramente sporcare la faccia. Quindi spero che vorrete farlo anche con queste pagine, grazie. Ok, grazie mille Fede. A questo punto vi ricordo Flash di Federico Filippo Fagotto. Ringraziamo Exalge per lo spazio che ci ha dedicato e per la collaborazione e per l'aiuto che ci ha dato per questa piccola presentazione. E vi dico, se avrete voglia di leggere il libro, sono sicuro che Fede sarà sempre felice di parlare dei vari personaggi e di con quale vi siete più impersonificati, quale vorrete più approfondire, perché è veramente un mosaico di persone questo romanzo. Quindi vi invito a farlo anche per comprendere un po' le umanità che girano attorno a una storia. E adesso, presentazione finita in... dai. 35 minuti. Ci siamo stati dentro. Passo la parola invece al fondatore, assieme a Federico, delle Cene Poetiche, cioè Francesco Pipitone. Bene, gente. Allora, noi ci vediamo invece, subito contraddicendo quanto ha appena detto Bidu, ci vediamo fra 5 minuti in modo tale da digerire un attimo quanto avete sentito e digerire quello che state mangiando. Così creiamo la scaletta. Adesso passerò tra voi a rubare i vostri nomi, a scriverli qua. Chi ha voglia di competere si avvicini a me o io mi avvicinerò a voi. Bene, allora, al tavolo o non al tavolo, qui si inizia. Allora, cari miei, cari bei poeti, coraggiosi o no? Allora, come funziona la cena poetica? La cena poetica nasce in un momento in cui avevamo un bisogno matto di condividere, un bisogno folle di incontro e di scontro, eh? Nella prima parte delle cene poetiche di solito ci si gareggia addirittura, no? Che tra l'altro la chiamiamo gara, non la chiamiamo slam, che non abbiamo paura delle parole. Comunque, allora, dato che oggi siamo in un posto nuovo, situazione nuova, e gli imbarazzi sono palpabili, ma non ce ne frega nulla, oggi partiamo con l'open mic. Non serve che io vi spieghi che cos'è un open mic, non serve che vi dica quali sono le regole del microfono aperto. Qui alla mia destra c'è una scaletta, perfetto, cazzo, manco Mastrotta queste cose, che è in continua formazione, quindi nel momento in cui prendete confidenza con l'ambiente, vi va a dire qualcosa, voi vi avvicinate, prendete uno di questi gessetti, vi segnate, oppure lo dite a me o a Federico, che è quello che ha presentato il libro poc'anzi, e noi vi segniamo. Però innanzitutto facciamo un applauso facinoroso a Exalge, che ospita questo evento. Oh, bravi. Bene. E facinoroso è la parola giusta, perché oggi, soprattutto qua, soprattutto all'evento, alla cena poetica, a me piace, e credo un po' a tutti noi del collettivo PEM, che è Poesie ed Euforie Metropolitane, piace essere minacciati dalla forza delle vostre poesie. Perciò, poca timidezza e lanciatevi. Allora, le cene poetiche, come vi dicevo, ci piace che siano uno spazio in cui si condivide, ma condivide proprio nel senso quasi antigenico della parola, dal microfono con gli sputacchi a mettere le mani nello stesso piatto, ma poi anche una promiscuità intellettuale. Ci piace che ci sia uno scambio di pensieri, di passioni, che ci si avvia vicenda. Stavo cercando la parola tipo dinamismo, dinamicizzi, non lo so, non credo proprio, però vabbè. Inoltre, da qualche tempo a questa parte, noi stesso stiamo iniziando a essere un po' vagabondi con queste cene, ci è venuta una mezza idea noi di PEM, ma perché non mettiamo all'interno della cena anche un ospite? Chi sono gli ospiti? Qual è il ruolo degli ospiti nelle cene poetiche? Essere i più fighi di tutti? Non lo so, questo starà a noi vederlo. Ma l'ospite, nella mia idea, è colui che magari ha già un piede nel mondo della poesia, è già affermato nel mondo dell'editoria, che ci ispira a noi di PEM, in qualche modo incarna lo spirito di questo entusiasmo metropolitano, e quindi può essere anche lui, stessa cosa, no? Un'opportunità per chi invece magari è alle appendici e agli inizi di questo percorso, relazionarsi, prendere, imparare, ascoltare, chiedere, spremere, tutto quello che volete. Quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, io direi di iniziare questa cena poetica da Exalge. Ripeto, potete scrivervi quando volete. Io adesso do il benvenuto a un amico carissimo con il quale abbiamo condiviso, tra l'altro, sui Navigli, cosa che in qualche modo richiama il libro che abbiamo appena sentito presentare dal buon Federico. Questo personaggio che adesso vi presento è un amico di vecchia data, professore, non dico dove, non dico come, esperto di shivaismo tantrico del Kashmir, segretamente nessuno lo sa, nessuno esce da qui dicendolo, e Frank Gonella. Allora, mi sentite? Sì, scusate, un po' alto, vabbè, vediamo se ce la fai. Grazie. Allora, in realtà io non sono, diciamo, sono un parvenu anch'io, perché ho scritto e ho pubblicato 4 romanzi, però il primo l'ho pubblicato sotto pseudonimo, 2 insomma sono andati così così, il quarto l'ho pubblicato di nuovo sotto pseudonimo, perché io in realtà mi occupo di finanza, no? Ho fatto il liceo classico e poi ho iniziato, quindi mi è rimasto sempre questo tarlo della scrittura. E poi ho iniziato a scrivere e bontà sua, un editore mi ha pubblicato 16 anni fa. E cosa ho pensato di fare? In realtà non ho mai fatto presentazioni dei miei libri, forse per timidezza, quindi forse non sono la persona nemmeno giusta io, perché sono non ho mai, questa è la prima volta in cui faccio una presentazione di quello che ho scritto. E ho fatto una piccola riflessione, diciamo, su... perché ho scritto certe cose, ma non vi voglio tediare, faccio veramente 4 piccoli inserti di 5 minuti ciascuno, sui 4 libri che ho pubblicato. Questo è il primo, che in realtà avevo un altro titolo, si chiamava La madre del torero, e appunto è stato pubblicato, no, 14 anni fa, ma l'ho scritto 16, ed è giunto alla terza edizione. Lo pubblicai sotto pseudonimo, ricevette anche una lusinghiera recensione sul domenicale del Sole 24 Ore da Giovanni Pacchiano, che è riportata qua. E perché, diciamo, sono partito da questo? Non solo perché è il primo, diciamo, che ho pubblicato, ma anche perché io sono figlio unico, mi sono occupato, appunto, lavoro in finanza, e questo libro parla, diciamo, racconta della storia di due fratelli, uno che scrive e uno che lavora in finanza. È ovvio che dietro qua c'è Dr. Jekyll e Mr. Hyde di me stesso, no? E naturalmente lo scrittore fallito, perché è anche un po' ripugnante, diciamo, questo scrittore fallito è il protagonista, il detragonista, che è il fratello Marco, che lavora in finanza, forse è ancora più ripugnante, però in qualche modo ha una sua dignità, no? Perché lavora, fa qualcosa di interessante, è anche sposato, quindi si comporta bene, tranne verso la fine del romanzo, in cui lascerà la moglie, lascerà tutti. Io vi leggo, se volete, perché, diciamo, credo che sia interessante il fatto che alla fine, quando si parla di letteratura, è tutto nella scrittura, no? Se la scrittura è buona e se la scrittura in qualche modo cattura, significa che sei riuscito a coinvolgere e a interessare i tuoi lettori, no? Come diceva Roland Barthes, il piacere è tutto di chi legge, non di chi scrive, quindi noi siamo degli umili servitori. Diciamo, è interessante, perché, non so se è interessante, ma comunque è curioso il fatto che io abbia pensato di scrivere e iniziare questo romanzo in qualche modo rivolgendovi a mia madre, che ha sempre odiato che io scrivessi, perché è lei che poi mi ha detto: no, non devi, fai fatto liceo classico, vai a fare economia e commercio. E di lì è iniziata la mia disgrazia personale, no? E quindi di qua inizia anche, diciamo, la mia avventura letteraria. E inizia così: cara mamma, non so bene da dove cominciare. Per trovare la frase giusta dovrei chiedere aiuto alla mia biblioteca, ma come sai non esiste più. Ecco, ti ho già innervosita, ti ho parlato di libri e non ti ho chiesto nemmeno come stai, perché io quando chiamo mia madre non le chiedo mai come sta. Come stai? Immagino non troppo bene dopo questo casino, è per questo che ti racconto. Lascio che a parlare sia il diario di questi miei giorni. C'è poca letteratura dentro. E poi, diciamo, il romanzo com'è che si sviluppa? Si sviluppa appunto su questo confronto fra questi due fratelli, ma in realtà c'è un terzo personaggio che è un rom, che compare all'inizio, che è quello che in qualche modo fa scattare tutto il plot narrativo. Questo zingaro è l'unico personaggio positivo di questo romanzo, perché intanto è uno che distrugge la biblioteca di Luca, lo scrittore fallito, usa i suoi libri come carta igienica, ci piscia sopra, li butta via, non gliene frega un cazzo. E poi è il rom che in qualche modo scatena anche un effetto a catena nella casa del fratello. Vi leggo semplicemente, poi lascio, come dire, non vi voglio tediare su questo libro, ma soltanto per farvi capire, diciamo, questa tensione fra questi tre personaggi, subito dopo l'introduzione rapida che vi ho letto prima, parte il diario. 15 giugno, mattina presto. Sono uscito alle 8, fa un gran caldo, non ho dormito, in via Monte Napoleone affondo nei miei pensieri da liceale. Duelli a mani nude con tigre azzurre, rapimenti di principesse circasse, viaggi in mongonfiere spaziali, derive su zattere caraibiche e li vedo naufragare in un mondo di amministratori delegati. Cammino a testa bassa per paura di incontrarli, la mamma, Marco, la Bea, la Rissa, la Colf, anche il loro cane, Budget. Dialogo con mio fratello, perché l'avete chiamato così? Il Budget è il cane da guardia dell'azienda. Fine del dialogo. Paura di incontrare tutti gli altri, i miei compagni di quel tempo, che la mamma mi dice sempre, che carriera che ha fatto il Giampi, o il Claudio, o il Matteo. Ma tu sei, mi fanno se li incontro. E io, no, guardi, ha sbagliato. Ah, mi scusi, di niente. Pretendono che io ricordi, ma io non ricordo davvero. Prendo un caffè da cova. Penso, anche Hemingway andava da cova. Hemingway è stato in tutti i bar del mondo. E vabbè, qua vi lascio perché dentro c'è questo confronto fra la vita falsa, quindi la vita della letteratura, e la vita vera dell'amministratore delegato. Grazie. Allora, le ultime due indicazioni per chi volesse partecipare. Dato che non c'è il contest oggi, non c'è la gara, non c'è lo scontro, potete benissimo leggere qualunque cosa, ok? La poesia che vi ha attaccato e non riuscite a scollarvi dalla mente, tutto, ok? Non deve essere necessariamente vostro, può essere anche una performance. Se siete dei cantautori, potete benissimo venire qui a cantare, so che sto parlando a qualcuno che sa di cosa sto... Allora, cosa sto alludendo? Allora, cari miei, ultime cose, quando salite prendete il microfono, dopo aver letto la vostra poesia, mettete caso che io fossi Federico, finisco di recitare quello che devo recitare e poi guardo dopo il mio nome chi c'è, c'è Andrea, Andrea vieni sul palco, ok, così, e Andrea viceversa farà la stessa cosa, va bene? Caro Fede, dal via a questo open mic. Bene, sono qui di nuovo in auge, convocato in qualità di ospite, quindi cercherò di onorare questa livrea nel migliore dei modi, pur armato oggi del libro di cui si parlava prima, il mio romanzo, dal titolo Flash, che in quanto romanzo appunto non è scritto in versi poetici, ma per trovare la maniera di darvi qualcosa che abbia a che fare con la poesia, ho scelto due brani, adesso ne leggo uno, se poi si avrà voglia ce ne sarà un altro, altrimenti cut, che hanno a che fare con dei poeti. Alla scena poetica si cerca spesso, a me piace molto coniugare quello che si legge con quello che si magna, perché tutto in e out va attraverso la bocca, quella specie di bomba atomica cioccolatosa di mia faticosa opera di oggi. Ha una storiella quella torta, era rimasto in sospeso questo trick, si chiama Brooklyn Blackout Cake. È una torta che è stata inventata a New York subito dopo la guerra per omaggiare, onorare la vittoria e soprattutto il fatto che nel porto di Brooklyn, che era armato da navi militari, era adibito a porto militare, per sviare l'aviazione giapponese durante gli assalti, durante i bombardamenti, c'erano dei blackout programmati che quindi oscuravano il porto e toglievano visibilità ai piloti dei caccia. E quindi una volta vinta la guerra, i pasticceri hanno inventato questa torta tutta buia, chiamandola appunto Brooklyn Blackout Cake, e io l'ho scelta perché fa un po' da contraltare, invece eccolo qui che casca, alla luce come flash del mio romanzo. Quindi, luci e ombre. Ho scelto uno dei due poeti che nella concatenazione di reincarnazioni vengono evocati in questo romanzo. Questo poeta, che è un mio grandissimo mito e sto contagiando anche Pipitone con questa figura eroica e voglio contagiare tutti voi, è un poeta russo che si chiama Daniil con due I, Charms, C-H-A-R-M-S, che negli anni 20-30 ha fondamentalmente inventato il surrealismo prima dei surrealisti ed era un pazzo totale. C'è una sua raccolta folgorante che si chiama I casi, in cui ci sono dei brani nonsense, uno che si intitola Vecchie che cadono, persone che si dimenticano quello che stanno scrivendo, che borrano giù dalla sedia, che muoiono, vomitano, fanno qualsiasi cosa, e soprattutto in una di questi calembour c'è la frase che secondo me esprime la violenza poetica non aggressiva che credo Pipitone voglia motteggiare per questa scena poetica. Daniel Charms diceva: bisogna scrivere poesie talmente forti che a lanciarle contro la finestra il vetro si rompa. E quindi, per fare questo omaggio a Daniel Charms, vi leggerò il momento in cui nel mio romanzo un soldato russo infiltrato nell'esercito nazista di stanza in Finlandia si ritrova, per caso o non per caso, nella stessa cella, in un manicomio militare che era stato adibito all'epoca, siamo durante l'assedio di Leningrado, quindi piena Seconda Guerra Mondiale, dall'altro lato rispetto agli Stati Uniti a Brooklyn di prima, e si trova in cella con questo pazzo che lui non sa, ma noi presagiamo, perché l'abbiamo imparato poche pagine prima, essere il nostro eroe Daniel Charms. E succede questo. Tuttavia i giorni passavano, c'è questo soldato in cella che è recluso e non ha niente da fare, a Bulici, e non c'era di meglio da fare che ascoltare i discorsi di quel matto. Era il primo di febbraio, il giorno che anni or sono Lenin cancellò rifiutando il calendario giuliano. Il suo compagno di stanza era letteralmente in fin di vita, ma respirava abbastanza da poter sproloquiare. «Tutto è finito! Tutto è fumo!» vaneggiava. «Anzi, forse non esiste proprio nessun fumo. Niente di niente. Perché dice così?» Che ci crediate o no, dietro la schiena di Daniil non c'è neppure il vuoto siderale, o come si dice, l'etere universale. Tutto sta nel fatto che Daniil Dandan, che era il suo soprannome, non esisteva e non esiste, tanto al di dentro quanto al di fuori. Dentro o fuori che cosa? Si nervosiva Muttanen, che è il nome del nostro soldato. Qualcosa evidentemente esiste. È chiaro che siamo in un vicolo cieco. Il matto gli si avvicinò scrutandolo negli occhi. Tu sei cieco, urlò. Daniil, invece, un giorno si è sfregato l'occhio destro ed un tratto ha visto la luce. Ha recuperato la vista. E cosa ha visto? Vestnik, sussurrò. I messaggeri sono venuti a trovarmi il giorno in cui si è guastato l'orologio. Il calendario a foglietti ha iniziato a oscillare, pur con la finestra chiusa, e io li ho visti dentro una caraffa d'acqua. Ma cos'era l'acqua? Misi in bocca il calendario, misi in bocca la mia cintura, poi cercai sotto il letto e sotto l'armadio, ma niente, sotto l'armadio trovai però un residuo di polpetta e me lo mangiai. Stavolta Muttanen era meno restio a quell'assurdità e chiese di più. Erano demoni? Demonico è ciò che non si spiega mediante l'intelletto. Io ne sono ossessionato, vedi? Ne ho uno dentro di me. Mi ha rapito la nascita. È l'anima di un poeta, che è stato anche un'imperatrice, un ammiraglio, una ladra, un pirata e un filosofo. È stato racchiuso in una poesia, in un seme di cachi, in una bottiglia di vetro, in una botte di rum e in altri mille posti. E in cos'altro si trasformerà adesso? In una sfera. Una sfera. A poco, l'uomo prenderà la propria forma, la perderà e diventerà una sfera. E una volta trasformatosi in una sfera, l'uomo perderà tutti i suoi desideri. Morirà, quindi. Domani. Domani l'anima di Daniil correrà dietro all'angelo della morte, voltandosi indietro ogni momento con sguardi di odio. Ma l'angelo della morte allungherà il passo e l'anima di Danil a balzi incespicando scomparirà in lontananza dietro una svolta. Tirato un lungo sospiro, Muttanen sentiva in lontananza il fischio delle bombe lanciate dagli Stuka. C'è al mondo qualcosa che abbia senso? Chiese poi. E che possa addirittura cambiare il corso degli eventi, non solo sulla Terra ma anche in altri mondi? C'è? Rispose il matto. E che cos'è? Cominciò e di colpo si tacque. Muttanen rimase con ansia in attesa della risposta. Ma lui taceva. E lui stava lì. E l'altro taceva. Sì, sono tutti e due lì e tacciono. Per non sciupare quella perfezione, Muttanen estrasse dal risvolto del saio la sua icona e la offerse al matto, che la fece sua con ambo le mani. La guardò ammirato, col suo sguardo freddo e seducente. Poi disse: «La vita è un mare, la sorte è il vento e l'uomo è una nave. È impossibile cogliere lo spirito dell'epoca perché un'epoca è fatta di attimi. Il presente è soltanto un ostacolo nel passaggio dal passato al futuro. Il presente è l'ostacolo nell'esistenza del tempo. Il presente del tempo è lo spazio. Tempo, spazio e materia formano un nodo, il nodo dell'universo. Lo vede allora che esiste qualcosa nel mondo?» osi dire il soldato Muttanen. «Ma adesso non c'è», ribatté subito il matto con decisione. «Adesso ci sono soltanto io. Ho capito che sono appunto io il mondo, ma il mondo non sono io. Ma io sono il mondo, ma il mondo non sono io. Ma io sono il mondo, ma il mondo non sono io. Ma io sono il mondo, ma il mondo non sono io. Ma io sono il mondo, ma il mondo non sono io». E continuò così all'infinito finché il giorno dopo si spense. Ma non venne meno la sua anima. Soffiò con l'ultimo respiro sulla piccola icona regalatagli dal soldato, come fosse la candelina di una torta di compleanno. A voi una torta. Grazie. Andrea. Ciao, è la seconda volta che leggo a un pubblico una mia poesia e sinceramente non saprei bene come introdurla, perché è una cosa che ho scritto e mi è venuta fuori così. Quindi non ha neanche un titolo, quindi è semplicemente questo. Tele di pittura è fatta tua natura, di sfumature chiare e scure, di acque pure è invaso il volto, boi insicure ne abitano il porto, attirate da due grandi mulinelli, ipnotici baccelli, attraversano il quadro intero, siano tutti eterno cornice d'un quadro tanto pieno, sperimentino tutti il dolore di essere ciò che conta meno. Posto. Matteo. Ciao a tutti, sono Matteo, questa è la prima volta che partecipo a una cena poetica e ne sono molto contento. Ci siamo già incontrati io e Federico in altri ambiti poetici. Io di mio scrivo, non lo faccio professionalmente ma mi piacerebbe. E quello che avevo preparato per oggi è una cosa in realtà diversa da quello che io scrivo solitamente. L'ho fatto come esperimento. Sono basso, tra l'altro, si sarà notato. Molto bene. L'avevo fatto una volta come esperimento per vedere se riuscissi a scrivere una cosa che potesse essere anche performativa e non solo da poesia da leggere. E l'ho scritta in un periodo in cui vivevo determinate cose, leggevo determinate cose, e poi ho smesso di leggere quelle cose lì, però in qualche modo mi sono rimaste dentro. Era comunque un periodo diverso della mia vita, però mi faceva piacere comunque condividerlo con voi. Ha e non ha un titolo, forse lo dirò dopo, forse no. In ogni caso, inizia in questo modo. Preferisco un mondo in cui non cammino. Preferisco una luna fatta di aghi di pino, foglie di ibisco, rami su rami su rami pungenti, dilanianti. Artigli che graffiano giovani madri, uccidono vecchi figli. Preferisco un mondo in cui striscio, preferisco sentire una viscida mano fredda sulla testa canina, che cada al compimento della mia maggiore età. E così anche i piedi, le dita, tutte le altre appendici, un tronco spoglio che gira e rigira, annegando in lacrime e dolore. Le radici affondano, assorbono e si perdono. Il corpo galleggia nella pozza, ma anche le anatre, prima o dopo, riemergono col cibo nel becco dall'acqua sozza. Fronteggi quindi il dolore e il sangue prodotto da spine ficcate nel fianco, cespugli di rovi sul tuo cammino, fuoco dal camino, tutto è sofferenza, tutto causa asfissia, tutto è fumo nella stanza. Inspiro monossido, espiro carbonio, creo soffio di brezza marina. Acqua e sale mi fai bere, diceva una vecchia canzone. Con un colpo sangue dal naso, sangue e dolore, il setto danneggiato, rotto, fratturato. Respiro di nuovo me stesso. Particelle di me rientrano in circolo. Sono parte di un circo. La mia vita è il più grande spettacolo. Venite, venite. Un euro a biglietto. Devo ripararmi il setto. Grazie. Grazie, grazie. Io sono Carlo e sono qua grazie al fatto che quest'estate stavo all'Isola del Giglio e c'erano questi ragazzi che suonavano, cantavano al tramonto su una terrazza del campeggio e erano fichissimi, allora ho voluto conoscerli. Tra questi c'era Francesco e quindi è stato bello e mi concede di essere qua questa sera. E adesso volevo leggere una poesia che avevo scelto di Pasolini, poi ora... Io scribacchio delle cose stupide sulle note, che non sono poesie, sono cose così. Quest'estate tenevo un diario, perché non c'era poca connessione sull'Isola del Giglio, quindi non riuscivo a mandare messaggi. Allora prendevo un po' di appunti, e quindi secondo me funziona, c'è anche una conseguenzialità con le cose. Quindi l'8 agosto all'1:57 scrivo «Giornata transitoria». Le recenti scoperte che mi vestono come lino su un isolotto estivo hanno mosso ogni mio passo. Giornata di incontri concreti, di incontri naturali. La naturalezza di oggi la vorrei per sempre. La pasta al tonno con le mani di Rossella. Donna, amica, mamma, sorella. La sua pelle e la mia pelle. Alice e la sua voglia di impastare la vita scardinando le ricette alla ricerca di nuove. Mi riesce a capire. Filippo, inclassificabile e così naturale, e pensare che alle scuole elementari sarebbe da rieducare. Mario e la sua irregolarità, domata ma mai sopita, come un abile giocoliere. Fine. Valentina. Ciao a tutti, sono Valentina, appunto. Io non scrivo poesie, ma scrivo solo, cioè cerco di scrivere romanzi, quindi vi leggerò in realtà una poesia del mio poeta preferito, che è Nazim Hikmet, che mi emoziona sempre un sacco, quindi spero di non emozionarmi. Non la leggo neanche così bene come tutti i miei predecessori, per cui vabbè. Però la poesia è molto bella, quindi. Allora, Mosca, 1959. Allora, sono già troppo emozionata. Sì, sì, allora, ti amo come se mangiassi il pane spruzzandolo di sale, come se alzandomi la notte bruciante di febbre bevessi l'acqua con le labbra sul rubinetto. Ti amo come guardo il pesante sacco della posta. Non so che cosa contenga e da chi. Pieno di gioia, pieno di sospetto agitato. Ti amo come se sorvolassi il mare per la prima volta in aereo. Ti amo come qualche cosa che si muove in me. Quando il crepuscolo scende su Istanbul poco a poco, ti amo come se dicessi Dio sia lodato, son vivo. Che bello, grazie, bellissimo. Allora, io vi volevo leggere il poeta che... Ma ci siamo messi d'accordo? Non ci siamo assolutamente messi d'accordo su questa cosa, perché lui mi ha consigliato questo poeta e io sono andato a cercare questo libro che non ho trovato e quindi ho piratato, cioè mi sono scaricato un PDF e mi sono fatto gli screenshot e ce li ho qui. In metro ho provato a metterli sul taccuino, ma il taccuino ora è da qualche parte, quindi vi accollate il cellulare. E, il poeta è Daniil Charms, esatto, e io mi sono innamorato dalla prima pagina, un po' perché... Una delle prime, questa è la poesia numero 3 e si chiama Vecchie che cadono, cioè non puoi non innamorarti di uno che inizia così e fa in questo modo. Io lo trovo esilarante, magari voi no, però io lo trovo esilarante. Una vecchia, per troppa curiosità, si sporse troppo dalla finestra, cadde e si sfracellò. Dalla finestra si affacciò... Scusate, non fa così ridere, ma... E che provatevene a immaginare questa cosa, funziona soprattutto se ve la immaginate. Rincomincio, scusatemi. Vecchie che cadono. Una vecchia, per troppa curiosità, si sporse troppo dalla finestra, cadde e si sfracellò. Dalla finestra si affacciò un'altra vecchia e si mise a guardare giù quella che si era sfracellata, ma per la troppa curiosità si sporse troppo anche lei dalla finestra, cadde e si sfracellò. Poi dalla finestra cadde una terza vecchia, poi una quarta e poi una quinta. Quando cadde la sesta vecchia, mi stancai di stare a guardarle e me ne andai al mercato di Malcevski, dove dicevano che a un cieco avevano regalato uno scialle fatto coi ferri. Bellissimo! Fine, punto! Dato che sono fulmine, vi leggo anche queste altre tre che fanno così. Lo scrittore. Due punti. Io sono uno scrittore. Il lettore. Secondo me invece sei una merda. Lo scrittore resta per alcuni minuti folgorato da questa nuova idea e cadde esanime. Lo portano via. Due. L'artista. Due punti. Io sono un artista. L'operaio. Due punti. Secondo me invece sei una merda. L'artista divenne bianco come un cencio e cominciò a tremare come un giunco e improvvisamente trapassò e lo portarono via. Terza poesia. Il compositore. Io sono un compositore. Vania Rublev, due punti. Secondo me invece sei una merda. Il compositore, respirando affannosamente, si accasciò all'istante e improvvisamente lo portarono via. Quarta poesia. Il chimico, due punti. Io sono un chimico. E il fisico. Secondo me invece sei una merda. Il chimico non disse più una parola e rovinò pesantemente a terra. Mamma mia. Viva i russi! Incredibili. Allora, io non vedo... Ah, vedi che complicato. Mattia, caro mio, che mi ha detto? Allora, mentre apparecchio le robe, prendo quello, gli do questo che è acceso. Sì. Allora mi fa, allora tu vai avanti, imbastisci un pochino il pubblico che devo apparecchiarmi la cosa. In che modo? Io vi dico, prendete tutti i vostri cellulari, fate vedere, sta per suonare lui, quindi ecco la roba lì. Ma prima di accendere le torce andate su Instagram e iniziate a seguire PEM, che è Poesia ed Euforia Metropolitane, che è il collettivo che porta in giro le cene poetiche un po' per tutta Milano. La piovra poetica si sta espandendo e pian piano ci saranno, spunteranno qua e là nuove date. Ah, com'è? Bello. Bene? Signori, Mattia Solimano, ho anche detto Mattia Solimano. Faccio solo una precisazione, mi sono messo al pianoforte per questo, perché per cantare le poesie gli antichi avevano la lira. Abbiamo visto anche parecchie volte alla cena poetica la lira tirata fuori e utilizzata. Ecco, loro avevano la lira, dicevo, infatti erano antichi, perché fossero stati contemporanei avrebbero avuto. Lo state pensando voi? non state messo. Questo è solo per dire che il mondo si è evoluto, è più democratico, è più equo, è più inclusivo, no? Infatti a me, che non c'ho una lira, Exalge mette a disposizione il pianoforte. Un applauso Exalge per il pianoforte. Vi ricordate quella storia che per gli antichi greci dare il nome era come conferire il carattere dell'anima di un nascituro? Ecco, pensate a come vengono scelti i nomi oggi e a che cosa significhino per un nuovo individuo. Questa sera vi canto di Astianatte, figlio di Ettore e Andromaca di Troia, cantato per la prima volta da Omero nell'Iliade. Che palle, eh? Questo era il jingle del Che palle, famosissimo jingle. Ma tranquilli, non è tanto la sua storia che mi interessa dire, quanto parlare di come fu chiamato, di come fu nominato. Così sono partito con una domanda. Ma è possibile che l'ultimo padre che ha pregato gli dèi che il figlio fosse migliore di lui, ce lo siamo dimenticati giacente sotto le mura di Troia? Per di più, ucciso da un campione qualunque, quell'Achille, come fosse un Cristiano Ronaldo o un Elon Musk con spada e scudo. Uno facile, insomma. E poi un'altra domanda. È possibile che il personaggio che ci siamo inventati più simile a Ettore di Troia sia Vegeta? E quello che sembra più Astianatte sia proprio lui, Gesù Cristo? Bene, secondo la mia logica a questo punto Vegeta è Dio, ma non c'era bisogno dell'epica della mitologia per dirlo, questa è semplice realtà. Tornando ad Astianatte invece, è incredibile come sto povero Cristo, a questo punto letteralmente, se lo siano contesi tutti nella storia. L'hanno fatto morire e non morire in 100 modi diversi, l'hanno fatto cadere dalle mura di Troia per mano di XAEA12, un altro nome interessante, ma intendevo il figlio di Achille, l'Elon Musk di prima con spada e scudo. L'hanno sbattuto fino in Francia o fino in Sicilia per fargli dare la discendenza un po' a Carlo Magno, un po' a Ruggero dell'Orlando Furioso e quindi agli Este. E ste cazzi, voi direte, ma pensate solo che i suoi l'avevano chiamato Scamandrio, come il fiume di Troia che quasi gliel'aveva portato in dono. Un nome di una bellezza e di una poeticità disarmanti. Ma c'era bisogno di un po' di leggenda. E allora i troiani si sono rimboccati le maniche e hanno deciso che in onore delle gesta del padre si sarebbe chiamato Astianatte, ovvero re della città. Jingle del re della città. Ora, secondo la logica di chiunque, Scamandrio è abbastanza un nome di merda, no? E Astianatte, se proprio devi e se ti piace il genere, è accettabile e sicuramente è meglio di Scamandrio da come suona. Pensate all'elementare di Troia, sto povero bambino, Scamandrio, tutti gli epiteti appioppati, Scamandrio, Scafandro, vabbè, povero bambino, insomma, oltre che povero Cristo, povero tutto sto qua, no? No, sul libro dei nomi che vendevano alla Upim di Troia, quella di Scamandrio era una delle pagine meno consumate. E allora mi sono fatto una terza domanda. Ma chi è il popolo per arrogarsi il diritto di conferire arbitrariamente un nome a un bambino sulla base di quello che crede sia giusto per se stesso? Pensateci un attimo, questo pensiero è contorto ma è portante. Ma chi è il popolo per arrogarsi il diritto di conferire arbitrariamente un nome a un bambino inerme sulla base di quello che crede sia giusto per se stesso? Meno male che i genitori oggi fanno un lavoro completamente diverso, non è vero? E vabbè, pensando alla faccia tosta di tutti i genitori del mondo che da quando hanno 13 anni giocano e fantasticano con i nomi da pioppare ai figli come fosse un gioco, caro Scamandrio, ti ho scritto una preghiera. Ti prego, Scamandrio, perdonaci per la nostra sete di storie da costruire. Siamo poveri stronzi, che si fanno i tatuaggi solo per poterli raccontare, che vanno alle mostre solo per poterlo far vedere, che vanno in vacanza solo per farsi invidiare. Siamo poveri ingenui che scelgono il cognome migliore da abbinare, il suono migliore da ascoltare, talvolta l'amico migliore da ricordare. Siamo noi i peggiori. Siamo poveri egoisti che ti danno il nome che loro vorrebbero avere. Ma tranquillo, toccherà anche a te. Al prossimo giro sceglierai il nome che ti va di più. Come un fatto estetico, come un accessorio forse, come la tua squadra del cuore. Peccato solo che non sarà il tuo, ma quello di tuo figlio. Ora, non so se a me arriverai mai, caro Scamandrio, e se ti chiamerò Vegeta, Giorgio Gaberschik oppure Genoa, ma ho un po' paura che il nome che sceglierò non sarà veramente il tuo e che quindi lo odierai e di conseguenza a me che te l'ho dato. Pensa come sarebbe bello se i figli potessero dare il nome ai propri genitori e non viceversa. Facciamo così allora, se arrivi, il tuo nome lo lasciamo un momento perdere, ma il mio, per una volta, voglio che lo scelga tu. È difficilissimo ritornare a dire qualcosa di simpatico dopo questa cosa bellissima. Allora, questo è il secondo libro che ho pubblicato. Diciamo, cos'è successo? È successo che dopo che ero stato tutto contento che mi avevano pubblicato, seppur sotto pseudonimo, le recensioni, eccetera, ho detto vabbè, scrivo qualcosa che sia totalmente distante da me. E da chi sono io fisicamente come persona, da qualunque cosa. Quindi ho cercato di immedesimarmi in una ragazzina, una bambina di 12 anni, orfana di madre e figlia, diciamo, di un DJ. Diciamo, la cosa che volevo trasmettervi è questo: per cercare di entrare in questa distanza ho cercato di avere dei riferimenti letterari, quindi diciamo c'era una specie di Calvino, del Calvino, del secondo Calvino, quello più astratto, fatto diventare contemporaneo, oppure c'era un libro secondo me straordinario, anzi due, che sono I sillabari di Parigi cercati modernizzati, no? Diciamo, questo libro credo che sia brutto, onestamente, fa abbastanza cagare, però diciamo è piaciuto un po' alla critica, forse per questo sforzo un po' ingenuo così. L'ho pubblicato sotto con il mio nome. La cosa interessante, credo, è, però vi voglio leggere, ma non vi leggo l'inizio perché non si capisce tanto bene, diciamo, bisogna leggere tutto, ma una pagina a caso che però trovo significativa, no? Se voi pensate a quello che vi ho detto prima, no? E diciamo, qual è la difficoltà stilistica? È che ho cercato di immaginare come potesse scrivere una ragazzina di 12 anni alquanto sveglia, figlia di un DJ drogato, con la madre morta e con il producer del padre che si chiama Screams, che è gay. E questo capitoletto, tutto fatto a capitoletti, si intitola Le amiche di papà, altra puntata forse meno interessante. Papà riceve anche molte offerte di sesso sul suo sito. Di solito sono grassone che vivono da sole o certe signore che si ricordano di quando erano ragazzine, i primi rave, eccetera. Certe si inventano anche delle storie, del tipo che papà la vede al concerto, capisce che è speciale, la chiama alla console, fanno sesso nella jacuzzi, eccetera, eccetera. Tutto noioso, sembra un porno. Screams risponde a tutte molto educatamente, non so come faccia. Una volta gli ho preso la password da amministratore e ho risposto io con frasi del tipo: sì, grazie della tua proposta. A me piace molto il sesso di gruppo lesbian transsex. Piace anche a te? Ma Screams si è arrabbiato tantissimo e mi ha detto: non farlo mai più, sono quelle che ci danno i soldi. Oroscopo del giorno. Giornata difficile con i propri cari. L'unico modo di conservare la propria solitudine è offendere tutti, prima di tutti coloro che si amano. Fortunatamente per me questa non necessita presentazioni, quindi vado subito. Il vento è un fluttuar di sospiri, aliti di cuore che sospingono per accartocciate fantasie l'esalatore. Traversa remote lande e strane viste nite di speme. E vivace rosseggia il volto suo quando quello dell'amata ricorda. No, immagina. Subito la fiamma lo divora e lei seco. Freme la mente riarsa, spugna seccata sotto astro bieco. Pensiero fossile, opaca tautologia che crede rigoire in poesia, di cieca fede reperto. Cessa la vampa di Nedia, ed or vedi che il tuo vento era scirocco, sospiro del deserto. Grazie. Va bene, nell'attesa che qualcun altro impugni il coraggio a due mani. E allora, Davide! No, vieni, vieni. È due ore che parlo. Grazie della precedenza. Buonasera a tutti. Io ve ne leggo qualcuna di Alessandro Bergonzoni. Lo conoscete? No, no, non personalmente, quello nemmeno io. Bene, siamo già nella cosa. Questi li lancerò così. Allora, oggi parleremo di quel che non si commette, dell'assicurazione contro la storia, della solitudine delle bandiere, dell'oasi perineale, di chi buca più volte e alla fine passa di là. Per esempio, di cosa parliamo? Del fatto che ci sono due nodi per non morire più. Uno è slegarli, l'altro è morire ancora. Rimetteremo i peccati al loro posto. Semineremo il tragitto di trappole per scopi e, tollerando solo l'incesto stellare, controlleremo che non ci portino via la roba stesa tra due momenti. Sapremo se la morte è una forma di evasione o il portento un modo per non accontentarsi di essere vivi. Faremo come certe ciglia, cadremo in silenzio. Siamo nati per nascere. E va bene anche un applauso solo cumulativo alla fine. Leggo ancora un paio. Da qui si vede il male. So di te, ma non è conoscenza, è solo odore. Sì, qualcuno arriva dopo. Adesso voi state ridendo per quella di prima, probabilmente. Ho avuto la custodia di mia figlia, ma dentro lei non c'era. È finito il tempo dei custodi, c'è solo quello degli angeli delle rocce che hanno cambiato sasso. Una cosa potente potete ancora fare: asportare l'invidia e donarla ai gelosi del trapianto. I peccati giusti esistono, e grazie di assistere. Oppure, del silenzio ombelicale non sappiamo niente, in continuazione. Del cazzo conosciamo solo il suo essere molto pronunciato, ripetutamente. Basta! Se fossi una donna, sarei l'uomo più felice del mondo. Perché la luce o una candela, quando sta per spegnersi, non fa pensare che sia per sempre, e invece una vita sì? Il premio per la realtà è il miracolo. Non pensare che sia vero, è molto di più. Questa no. Questa, chiudiamo con questa. Chissà quante volte la morte si suicida e noi invece crediamo sia nato qualcuno. Onore al grano sdraiato e grazie a voi di essere qui. E Giacomo. Premetto che non era assolutamente previsto, ma visto che ho sentito delle cose belle, sono stato ispirato. Allora, non voglio fare stand-up comedy perché non sono capace. Qualcuno di voi ha mai fatto l'ARP? Sa cos'è l'ARP? Nessuno? Qualcuno? Ok. È il gioco di ruolo dal vivo. E si vivono delle cose spesso molto intense e a volte c'è la possibilità di scrivere qualcosa a posteriori. E è più o meno l'unica cosa che abbia mai scritto, a parte qualche testo di qualche canzone che però non è mai stata pubblicata per motivi tecnici, ma questa è un'altra storia. Durerà tantissimo la premessa e pochissimo la cosa che leggerò. Allora, l'ho pensata ascoltando una canzone, quindi ora io la metto su Spotify, poi magari non si sente, però ci proviamo, ok? Qualcuno conosce gli Elephant Brain? Cioè, solo cose che nessuno conosce sto nominando, va bene. Ok? Questa è una cosa che ho scritto a posteriori di un evento di gioco di ruolo dal vivo, quindi non stavo bene, come tutti quelli che fanno il gioco di ruolo dal vivo. Fa così. Taccuino appoggiato sul tavolo instabile dell'aereo. Penna nera, cuffiette nelle orecchie e la playlist dei rituali alcolici che scivola indisturbata. Scrivo sopraffatto. Poi con una linea nera, netta, cancello la parola, barrandola per lungo. Guardo la pagina e sbatto le palpebre un paio di volte. Sullo schermo del portatile aperto, la mail con le dimissioni mi guarda a sua volta, in attesa di essere conclusa e inviata. Subito sopra il titolo, il nome del destinatario, il nome di mio padre, mi schiaccia contro il sedile. L'hai mai fatta una cosa per te stesso, Edward? O stai semplicemente lì, inerme, a subire quello che decidono le persone brillanti intorno a te? Lo sapevo nel momento in cui sono partito per l'Italia e ne ho avuto conferma appena sono arrivato, bagagli in mano alla villa. Non è fuggendo un'altra volta a Tebe che avrei colmato il vuoto soffocante di una vita spesa per soddisfare le aspettative degli altri. Siete adulti che non hanno accettato di crescere e scappate dalle vostre responsabilità invece di affrontarle. Cazzo, Truman, se non fossi un fottuto psicopatico potrei darti del credito per le cose dette in quella specie di goffo interrogatorio. E invece adesso sono qui, in volo per Tenerife, con una mail incompleta che si limita ad un ruffiano, caro signor Bradley Grover, e so già che non riuscirò a inviare. In tasca tutti i soldi che mi rimangono. È così che ci si sente quando si sta crescendo? Alzo gli occhi e vedo che a qualche fila di distanza la testa dei miei compagni di Manhattan e mi rendo conto, sto ancora una volta seguendo qualcuno più brillante e libero di me. Come potevo decidere per conto mio, in effetti, se non ho mai fatto una scelta, dico una, che non fosse per dimostrare qualcosa alle altre persone? Chiudo lo schermo del portatile, la mail salvata come bozza, la cravatta troppo stretta, il sedile mi fa appiccicare la camicia alla schiena, la scorsa notte non ho dormito più di 2 ore e mi chiedo se Sabine possa aver mai considerato di scappare con me, se solo avessi avuto il fegato di salvarla, e se avrei dovuto semplicemente dimenticare tutto e tutti quando ho ricevuto la lettera da Templeton. Segnale acustico dell'aereo. Inizio le manovre di atterraggio, allaccio la cintura, chiudo il taccuino, leggo un'ultima volta le frasi che ho scarabocchiato distrattamente mentre cercavo le parole per una mail che non avrò mai la forza di inviare. Siamo adulti che si illudono di scegliere un futuro diverso, ma abbiamo bisogno soltanto di un passato migliore. Grazie, scusate se forse era un po' caotica. Sono stata io, ebbene sì, Valletta, ma adesso anche poeta. Vai. Allora, totalmente improvvisata questa cosa, e avevo letto Destino coatto di Goliarda Sapienza, se avete letto, è molto bello, però ovviamente non l'avevo preparato, quindi non ce l'ho qua, e allora ho scritto alla mia amica Elettra, che l'abbiamo letto insieme: amo, mi mandi una delle poesie che abbiamo letto, che ci piaceva? E lei mi ha mandato questa, quindi io alzo le mani, se vi fa schifo è colpa di Elettra. Mi è successa una cosa strana. In agosto ho raccolto una pietra tra gli scogli di Nerano. Sembrava una cosa viva. Oggi, mettendo in ordine qui sul comodino dove l'ho tenuta questi mesi, l'ho trovata morta. Ho avuto paura di toccarla. E sta lì, morta, senza luce. Tremo e non so come fare a toccarla. Non riesco a non guardarla. Goliarda Sapienza. E signori, faccio una piccola reclame. Qui c'è Marcello Pipitone, proprietario del brand omonimo, fratello del signor Pipitone Senior, che ha un brand. Comprate le sue cose. È una marchettata! Comprate! E ora Gino! Un applauso a Gino! Buonasera a tutti. Io vorrei leggervi lo stralcio di un libro che ho finito qualche giorno fa. Parla... Lo scrittore è giovane, ha scritto poco per ora e spero che in un futuro possa pubblicare altri libri. L'ho letto in pochissimo tempo, mi sono sentito molto vicino alla storia del protagonista. Lo scrittore è Dario Ferrari, il libro è La ricreazione finita. Lo stralcio di cui vorrei parlarvi parla dell'evoluzione di una citazione di Calvino che... assunto appunto un cambiamento nella vita del ragazzo, del protagonista, non per forza migliore, ma appunto cambia, c'è stata un'evoluzione, come succede a tutti, di crescere e di cambiare. Allora, vi spiego al volo la storia. Lui è un protagonista, è un ragazzo di Viareggio che studia a Pisa, fa un dottorato a Parigi, per il quale si ritrova a studiare degli scritti di un certo Sella, che era un ex rivoluzionario italiano, mai esistito, però. Come il protagonista, cioè come Sella, il protagonista vuole, è spinto dalla volontà di cambiare, di evolversi, ma nel momento in cui si trova a dover fare delle scelte, capisce davvero quello che è. Vi leggo. Ho dovuto tagliare delle parti cercando di trovare un filo logico. Allora, inizia appunto con la citazione di Calvino, che poi nel finale dello stralcio cambierà. Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane. Stamattina mi sono svegliato con questa frase in testa, che avevo trovato da ragazzo alla fine del Visconte dimezzato di Calvino e che mi ero prontamente copiato sul muro di camera. Nel corso della vita me la sono ripetuta ogni volta che avevo bisogno di un alibi per la mia inconcludenza cronica, per la mia eterna incompiutezza. E la giovinezza, mi dicevo, passerà e allora sarò compiuto pure io. Ho continuato a ripetermela anche quando la scusa della giovinezza reggeva sempre meno, a 25, a 27, 30 anni. Ho continuato a ripetermela ogni volta che vedevo le persone intorno a me che cominciavano a costruire qualcosa, a creare delle irreversibilità, prole, convivenze, matrimoni, posti fissi, mutui. Non sarò io a essere sbagliato, mi chiedevo, che ancora non so che fare della mia vita. La voce di Calvino mi ripeteva: alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane. La sua mite autorità era sufficiente a tranquillizzarmi. Oggi non so se basta ancora. Oggi che alla veneranda età di 33 anni ho nuovamente fatto saltare il tavolo dopo 3 anni in cui mi ero applicato a giocare una partita tutto sommato onorevole, arrivando perfino a immaginarmi un futuro accademico. Forse a questo punto la giovinezza non è più un alibi sufficiente. Mi ricollego, faccio il salto. spoiler, lui abbandona il dottorato quasi alla fine. E la cosa mi avvicina molto, perché anche io ho fatto una scelta del genere. In vita mia non ho preso alcuna decisione importante in maniera consapevole. A mettere in moto le mie azioni è sempre stata una combinazione di caso, inerzia e resa incondizionata alle circostanze esteriori. Anche con il dottorato è andata così. Eppure devo dire che a un certo punto ci ho creduto alla possibilità di sfruttare quell'accrocchio di contingenze che mi sono offerte per cavarne qualcosa di buono. Ho provato a fare l'intellettuale, il cosmopolita, ho sentito pure, per un momento, di poter essere un rivoluzionario. Ma non scherziamo, non sono un intellettuale, e anche se forse negli anni 70 perfino io avrei potuto far parte di una banda armata in bilico tra l'epico e lo scalcagnato, oggi questa possibilità semplicemente non esiste. Se a un Tito Sella nella provincia degli anni 70 restava almeno la possibilità di fare una tragica pantomima della rivoluzione, per noi nella provincia a cavallo tra anni 10 e 20 pure la pantomima sarebbe troppa grazia. Si sente ripetere spesso l'adagio di Marx, secondo cui i fatti della storia si presenterebbero due volte, la prima sotto forma di tragedia e la seconda sotto forma di farsa. Questo forse vale per Milano o per Parigi. Da noi in provincia è diverso. Qui i fatti della storia arrivano già disinnescati, per cui già la prima volta sono una parodia, o commedia nera, o fantasma. E la seconda volta si presentano come velleità abortite. E la velleità abortita, modestamente, c'est moi. Alla fine della fiera ho giusto capito che in effetti era vero che non sono tagliato per l'università, ovvero ci ho messo 3 anni a capire da solo quello che tutti gli altri sapevano fin dall'inizio. L'unica differenza rispetto a 3 anni fa è che ho perso Letizia e buona parte dei capelli che mi restavano. E in conclusione ho preferito mandare tutto in vacca, sapendo che in questo modo mettevo una pietra tombale su ogni possibilità per il futuro. Credo che sia questa l'etica che abbiamo sempre seguito dalle mie parti. Se ti si presenta un'occasione, l'unica cosa onesta da fare è cercare di sputtanarla nella maniera più colossale possibile, trasformandola in aneddoto da raccontare al bar, anziché metterla a frutto e correre il rischio di riuscire. L'essere dei vincenti per noi non varrà mai quanto aver fallito in grande stile. Ho pensato di potermi immedesimare in Tito Sella, improvvisandomi intellettuale, rivoluzionario, perfino scrittore, ma ho dovuto riconoscere che non era possibile. O meglio, ho capito che il Tito Sella con cui volevo immedesimarmi forse nemmeno esisteva. Perché poi, paradossalmente, Tito Sella in un certo senso lo sono diventato. Entrambi ci siamo imbarcati in qualcosa che era al di sopra delle nostre forze ed entrambi siamo inevitabilmente capitolati. Mentre i predestinati, i vincenti, i rampolli delle classi dominanti o anche solo coloro che sanno scalare la gerarchia sociale con le unghie e con i denti, i Barabba, l'Etea, i Pierpaolo, si affermano e prosperano in un mondo che sembra pensato per loro. Altri, i perdenti, gli ingenui, i velleitari, i figli delle classi subalterne, gli sprovveduti, i Miro, i Carmine, le Emma, i Carlo, vengono travolti. E poi c'è una terza categoria, che è forse la peggiore. È quella di chi sta nel mezzo, gli incerti, i dubbiosi, chi non sa decidersi o decide solo a metà, chi vorrebbe essere intero ma non ne ha la forza, chi manda tutto a monte all'ultimo metro perché la sua vocazione non è il trionfo ma l'inseguimento di un fantasma, chi alla fine potrà soltanto restare a guardare o a raccontare. Questa categoria irrisolta, mi pare, è quella a cui apparteniamo io e Tito Sella. A volte uno si crede giovane, è invece soltanto incompleto. Francesco, prego, sei invitato sul palco. Pensavo di essere l'ultimo, quindi mi sono segnato, ma invece... Invece ce ne sono altri. Vabbè, allora io vi volevo leggere una cosa che avevo scritto un sacco di tempo fa, ma tantissimo tempo fa, ed è quel momento in cui siete magari abbracciati di notte a qualcuno nel vostro letto, siete andati a letto magari un po' brilli, quindi non è che siete esattamente lucidissimi, ed è quel momento in cui durante la notte il sonno fa un po' a lotta con la veglia e non capite se siete svegli, se siete lucidi, se state sognando, quindi è tutto un po' un ibrido di percezioni. E in più c'è un'altra persona con voi, a cui di solito volete bene. Durante il sonno ti scoprivo il petto, avvicinandomi come un chirichetto che accosta le labbra alla particola, abbastanza vicino da sentire l'alito caldo della pelle, curioso e prudente, come se lo spirito divino avesse fatto in te il suo nido. Rimanendo in questo gesto di devozionale venerazione, sento evaporare quella saldatura opprimente tra la coscienza e la veglia. Io, di fronte a quell'animalità messa a nudo, e tu l'altare, tu le mani, tu il fuoco, l'offerta e il burro. Il mondo è diventato sogno e fumo, e ora hai tutti i nomi. Grazie. Buonasera, vorrei leggervi un boccone di un libro che ho finito da poco, che è I visitatori celesti di Chandra Candiani. Un passo fondamentale è non dare niente per scontato o dovuto, non credersi mai in credito con nessuno e con niente. Non è garantita l'acqua potabile. La fonte si guasta facilmente. Non è garantito il calore in inverno. La caldaia ha una sua vita misteriosa e fluttuante. Non è scontato il salire e scendere con il fuoristrada quando c'è il ghiaccio o troppa neve o troppo fango. L'elettricità ha spesso balzi di tensione e può anche andarsene. E a quel punto non funziona più niente. Non si sa bene con chi prendersela, abituati a colpevolizzare sempre qualcuno. Ci si ritrova smarriti e disorientati quando non si può più farlo. E allora, ancora una volta, la vita si mette a nudo e ci trascina in una desolazione la cui via d'uscita ha molto a che fare con la capacità di abbandono che ingenuamente chiedevo al rospo. Solo dal terreno silenzioso di quell'abbandono spunta l'idea dell'azione adeguata che ci leva dall'intrico di guai. E quando non è più possibile uscirne, sarà l'abbandono stesso, la via verso il non conosciuto, che si apre il varco verso di noi. Una via in discesa. E qualche volta l'assenza di sforzo spaventa più della fatica di procedere in salita. Grazie. Allora, terza puntata, questo si intitola il mio nome è Frank De Jong, quindi c'è anche, come dire, in questo terzo romanzo c'è anche una sovrapposizione di nome tra Franco, Frank e me stesso, perché ci ho fatto la scelta proprio di raccontare il mondo della finanza, quindi dopo aver fatto questa favola. E, diciamo, il protagonista è sostanzialmente se volete come considerarlo un nazista, perché lo è anaffettivo, quindi è molto vicino a me. Prendete, non so se per l'anaffettivo o per il nazista, come preferite. E però si trova a lottare in un mondo che è ancora più spietato di lui, no? Che ha le regole della finanza, in cui l'unica regola è far produrre sempre di più denaro per chi ha già denaro. E lui non ha legami affettivi se non con una specie di fidanzata che in realtà è una escort trans. Ma al di là di quello che, come dire, sembra uscire dallo stereotipo, quello che vorrei dire è che dietro c'è un lavoro stilistico notevole sulla lingua. Difatti, ha avuto anche questo alcune recensioni, il tentativo era di lavorare molto sulla lingua, diciamo su questa specie di para-inglese con cui chi lavora nel mondo del business, appunto una parola inglese, si trova ogni giorno a parlare o a scrivere. E difatti questa artificialità della lingua poi si in qualche modo diventa anche l'artificialità di questi personaggi, che sono delle specie di automi senza anima. Forse la cosa più difficile è stata, come dire, scriverlo mettendo il mio nome, perché lavorando in un certo mondo e essendo un po' conosciuto, mi sono preso certe responsabilità nel farlo, anche per quello che ho cercato di non tacere. E diciamo, poi vengo, scusate per questa cosa, ho cercato di raccontarvi anche l'aspetto autobiografico, diciamo, come ho detto, non ho mai fatto presentazione dei miei libri, questa è la prima volta quasi postuma ormai, perché questo libro credo che abbia, è del 2018, quindi a 7 anni. E diciamo, parte a Dubai. Il lavoro rende liberi, dice sorridendo alla giovane avvocatessa ebrea, ma lei non coglie l'allusione, continua a lavorare, china sull'iPad a controllare in Delta View la versione 27 del contratto di investimento. Un'anima ingenua che ancora crede nei numeri e nei documenti in questo mondo di pura fiction. Il deserto è un mare di luce rossastra, filtrata dai vetri anneriti dell'Hammer. Avanzano cullati in un pattinare sospeso, con scosse leggere e piccoli smottamenti, nella scia di sabbia della colonna di SUV. È tutta una questione di packaging, pensa. Anche per questo mondo minerale, il nulla confezionato come esperienza. Ma questo mondo del nada, perché lui è un nichilista, quindi tutto il romanzo ruota al suo concetto di nulla, di nada, ma questo mondo del nada non lo vede nessuno, perché tutti pensano di avere una risposta. Come questa piccola Anna Frank, che nella hall dell'hotel, prima di salire in auto, l'ha guardata con quella faccia da saggio agnello ebreo, come se avesse chissà quale carta in mano, come se avesse chissà quale risposta. Il popolo eletto, la salvezza eterna, il giolì di Dio, la clausola che ti fotte nel contratto. E invece anche lei in mano ha il nada. Tutti pensano di aver trovato la risposta, ma non sanno che in finanza intanto sono cambiate le domande. Effettivamente poesia tira poesia, e quindi stavo spulciando fra le note, ho trovato una cosetta scritta più o meno un anno e mezzo fa e che mi richiede di fare un coming out. Io ho una passione inconfessabile, un complesso d'Edipo mai risolto, una passione per Barbara D'Urso, e quindi Barbara D'Urso è stata licenziata da Mediaset intorno all'inizio luglio del 2023 e io poveraccia no. Insomma, muore Berlusconi, la licenzia, e io ho scritto una poesia su questa cosa. Questa Barbara rotta, sfrattata, abbandonata come un cane alle porte d'agosto, sul ciglio, senza guinzaglio, finalmente selvaggia. Mamma luce offuscata, come un'eclissi pomeridiana, infuriata, mi scalda e intenerisce. Io nel suo grembo, lei in me, in eterno. Grazie. Vai, prego. No. Odio per la Lucarelli, ovviamente. Non lo so chi dire. No. E dopo abbiamo Andrea. Ciao, A me spiace essere così serio dopo tutte queste poesie o scritti divertenti, ma mi tocca perché scrivo solo cose serie. Allora, questa poesia la so introdurre invece e riguarda un paesino piccolissimo, fatto di tipo 3-4 case, che è in Piemonte, sperduto in un monte a caso, che però ci vivono i miei nonni, cioè meno hanno la casa in montagna, io vado spesso da... E dato che non prende niente, quindi sono completamente eliminato dal mondo, cioè sono scollegato, non so, mi piace tantissimo questo posto. E quindi ci ho scritto una poesia. Si chiama Cro, questo posto, quindi bello, bello arrabbiato. Dolci ruderi solitari, spettri di calde dimore, aleggi precari per le fronde delle more, superficiali graffi di civiltà, cicatrizzati dalle selve, segnano vette pregne d'umiltà, ultimo tempio di uomini belve, luoghi di ruvide riflessioni, ove le rose sono nobili donne decadute, ove le lucciole fungono da lampioni, ove la noia riacquista la salute. Non siete in difetto, monti pieni di lividi, perpetuate il rigetto degli occhi senza iridi. Un applauso a Pietro, signori. Ciao, non sono Pietro, sono Francesco. Pietro è un mio amico che se n'è andato, quindi ho preso il suo posto. Comunque vi leggo una poesia che ha scritto mio nonno paterno, e si chiamava Angelo, ho preso anche il suo nome, Francesco Angelo Mario. Si chiama Vado Randagio. Vado randagio, senza nulla cercare, vagante specchio di stupefacenti misteri. Va bene, siamo per atterrare, mi sa, no? Siamo vicini ai finali. Insomma, grazie al buon Mattia, che è sparito, dove è finito? Dove si è infrattato? Vabbè, grazie al nostro Mattia, prima abbiamo sentito tirare in mezzo a Stianatte, che morì male, gettato da Neottolemo, figlio di Achille, dalle mura di Troia. Nessuno ha notato forse che abbiamo avuto una vecchia che cade, poi un bambino che cade, una di fila all'altro. Quindi, in onore a queste morti tragicomiche, vorrei intanto raccontare purtroppo della fine di Daniel Charms, questo poeta che oggi abbiamo evocato qua, che appunto nella prima bella stagione delle avanguardie russe dopo la rivoluzione fu proprio baluardo, cioè fu colui che fu capace di spaccare le dighe, no? Anche della repressione artistica, al punto che lui e altri della sua generazione un giorno andarono proprio a udienza, perché era l'eminenza, da Malevich, il grande pittore, e lui lo guardò negli occhi. Sarebbe bello avere una foto di Daniel Charms, tipo un Majakovskij in acidi praticamente, e Malevich lo squadrò negli occhi di ghiaccio. Charms non era il suo vero cognome, era una crasi tra harm, dolore, colpo e charm, perché lui aveva negli occhi sia la violenza che la seduzione contemporaneamente, no? E quindi Malevich lo guardò negli occhi e disse: io sono vecchio e tu sei un giovane scapestrato, vai e ferma il progresso, gli disse. Purtroppo invece andò e fu fermato dal regresso, cioè dal realismo socialista e dalle purghe staliniane, fu imprigionato, portato in questo manicomio dove anch'io ho situato la mia scena, e poi morì. Siamo in una scena poetica, quindi ancora più tragicomico tutto questo. Non morì proprio dentro il manicomio, ma morì perché da un manicomio fu estradato e portato dalle guardie, siamo a Leningrado, nella Leningrado circondata dai nazisti, a loro volta circondati dai sovietici, un marasma assurdo in cui le guardie, richiamate alle armi perché c'era bisogno di soldati qualunque essi fossero, lo abbandonarono lì dov'era e lui morì di inedia, morì di fame tra le macerie di Leningrado perché non c'era neanche più una briciola di pane. 1942, morte di Daniel Charles. Insomma, non la sto facendo breve, scusatemi. Voglio farvi conoscere un ultimo grandissimo poeta questa sera, giapponese, che si chiama Shiki. Ed è un po' un ritorno alle origini per me. La mia rubrica nelle scene poetiche di paesi e piatti comincia da lui ed è una ricetta giapponese, perché per me Shiki è il migliore scrittore di haiku, anche più di Matsuo Bashi, insomma, un grandissimo poeta. E ce l'ho nel cuore anche un po' per la sua vicenda e il suo epilogo. Fu mandato come giornalista in Manciuria durante la conquista giapponese di quella porzione di Cina, e lui arrivò e non ebbe niente da fare perché ormai la guerra era finita, rimase lì pochi giorni, tornò in Giappone, quei pochi giorni gli bastarono per contrarre la tubercolosi e morire dopo pochi mesi. Negli ultimissimi mesi di vita, forse sapete, la tubercolosi porta a emottisi, quindi a sputare sangue, e in questo periodo, ormai allettato, incapace di alzarsi dal letto, scrisse i suoi versi più belli e fu soprannominato Shiki, non era il suo vero cognome, perché in giapponese Shiki significa il cuculo, perché il cuculo è quell'uccello che per amore canta fino a sputare sangue, fino a sgolarsi, e lui lo era. Quindi in omaggio, dopo l'omaggio a Charm, voglio leggere questo omaggio a Shiki in una scena che appunto io ho voluto immaginare tra lo storico e l'immaginifico, appunto per i suoi ultimissimi giorni. Lui ha letto: dalla finestra della sua casa contempla il giardino, è diventato il suo universo, le piante e i fiori la linfa dei suoi poemi, entra sovente della brezza, si insinua fra le aperture del kimono dandogli una sensazione deliziosa, una breve sosta dal male, cade spesso in trance come ubriaco, non fissando lo sguardo su nulla di preciso, poi la sua attenzione si fissa su una farfalla. Il suo animo l'accompagna istintivamente, accarezzando con lei i petali, inspirando i profumi, posandosi sulle gemme. È fuori di sé, al culmine dell'estasi, trascorre lunghe ore notturne disteso a occhi aperti. La sua ombra, proiettata dalla lampada a olio, evoca volti variopinti di bambini, folletti, scimmie. Ne resta incantato, ma pure sofferente, prova dolore mentre abbraccia la bellezza, in attesa del suo prossimo e ultimo stadio, il non desiderio. Prima deve affrontare l'impressione di trovarsi all'inferno, dopo che una notte di agosto subirà un'emorragia polmonare. Il suo spirito affronterà un sommo disordine. La sua pazienza raggiungerà i limiti ed esploderà, solo la morfina gli darà qualche breve sollievo. Ma spento l'effetto, griderà e singhiozzerà di un rodimento al di là di ogni umana comprensione, tutto per colpa di una fattura che l'ha reso come capro espiatorio. Sarebbe più facile se diventasse davvero folle, delira, ma impossibile. La morte sarebbe benvenuta, ma non può uccidersi, perché non è la sua anima a dover perire, bensì il demone che ha preso il suo posto. Si sveglia un giorno, guardando sul comò un pacco lasciatogli in regalo, questo è successo davvero. Il biglietto è dell'amico e poeta Guan Amada. Il pacco contiene una raccolta di tanka, un genere poetico cui si vota anche lui. Legge avidamente, gustandone ogni profondità. Il pacco contiene poi un'altra meraviglia, una cesta di cachi rossi e maturi. Anche il mio frutto preferito. Shiki ne è sempre stato goloso, perciò l'amico gliene ha elargiti. In più, deperito dalla malattia per la quale deve rinunciare a molti cibi, inizia a mangiarli con intenso e disperato amore. Negli ultimi giorni si lamenta quasi solo di kaki, osannandoli perfino nelle sue rime. Haiku, mordendo un kaki, suona la campana del tempio Oryuji. Scrive, lasciandosi andare alle sinestesie, oppure la campana della sera e il tonfo dei kaki maturi del tempio che cadono. Così, ascoltando e legando i suoni intorno a lui, sentenzia poi allungando l'haiku e avventurandosi in un tanka. Il tanka è un haiku con due versi in più. Certi kaki Sono zuccherini, certi cachi sono aspri. Gli aspri sono i migliori. È un giorno di fine settembre, meno freddo di altri, quello in cui il cuculo emetterà l'ultima nota. Desto al tardo mattino da una notte di dormiveglia, capisce che non ha più senso costringere gli occhi a stare aperti. Indovina a tentoni e senza guardare il legno del comodino, lo supera con le dita, facendo sua la preziosa scorta di cachi, ne afferra uno, affondando le deboli dita nella sua polpa sanguinosa e se lo porta alla bocca. Mastica una volta sola, sdraiato e con grande fatica, poi tenta di deglutire, ma il bolo gli si ferma in gola, si sente strozzare, i polmoni si stringono dando un colpo all'insù, rigetta il nettare che cola sul lenzuolo, lo sporca di un rosso ancora più denso perché intriso di sangue. La domestica lo soccorre per prima, subito dopo entrano i suoi allievi per guardarlo un'ultima volta, mentre col dito sporco di quella densa bile rossastra, il moribondo traccia su un foglio i suoi ultimi versi. Mosso a commozione, suo cugino raccoglie il residuo di cibo che gli cola ancora di bocca per salvarne la dignità. Si ritrova così fra le mani insieme di cachi. Il giorno dopo arriva all'Ocuribito, il preparatore di cadaveri, per svolgere solennemente il Nokan, la cerimonia di vestizione del corpo. Viene adagiato sul tatami e con estrema grazia spogliato dei vestiti terreni senza lasciare intravedere ai testimoni le pudende, indi ricoperto dei tessuti che l'accompagneranno nel prossimo mondo. Al termine della funzione, i congiunti chiederanno al becchino se tutto si fosse svolto in maniera ortodossa. Questi, un anziano dal lungo pizzetto spettinato, tradisce una certa perplessità. Spiega che il Reikon, l'anima del defunto, ha lasciato il corpo il giorno addietro senza attendere il rito di benedizione per potersi ricongiungere con gli antenati. Che significa dunque, lo interrogano? Che lo spirito era probabilmente un fantasma malevolo, intenzionato a soggiornare ancora in questo mondo fisico, probabilmente già trasmigrato da qualche parte per infestare altri uomini finché ne avrà desiderio. Così detto, il vecchio signore si accomiatò. Per scongiurare l'orrore, i parenti e gli amici di Shiki inviano al santuario shintoista la calligrafia scritta dal poeta in punto di morte affinché il Guji la trasformi in una fuda, il sigillo che tiene prigionieri gli spettri. Su di esso rimangono i versi da tenere in sua memoria, nei quali si descrive in tal modo: un mangiatore di cachi che amava gli haiku. Così bisognerà ricordarsi di me. Shiki, ve lo consiglio tantissimo. Va bene, gente, è stato veramente bello, è stato veramente entusiasmante e quindi grazie mille per aver partecipato a questa cena poetica. Un altro applausone ex Alge che ci ha ospitato. Spero di rivedervi presto, se seguite il profilo di PEM troverete sicuramente gli aggiornamenti e grazie ancora. Ciao. Bravi tutti. Ah, qua ci sono i biglietti di Marcello Pipitone, in caso vogliate. Grande fashion designer.